Sono santi gli ulivi, santi li viti, santi li riti, quando gariggiano alla pari, cu li pisci di lumari. Sante le pietre bianche, le mani delle madri, quando si fanno nido, sante le guance, santa la tua bocca che mastica la menta, sante la sabbia che nasconde l'acqua, che lenta aspetta primavera, per far posto allo stupore, santo il momento dopo l'amore. E la paura lascia sperare a piene mani, senza sudore, ma la paura lascia sognare senza speranza, si spera ancora, santo il ricordo quando non sa tornare. Perché qui non si muore soltanto una volta soltanto. Santi rovi di more, cresciuti ai lati delle strade, che tengono i frutti migliori dove nessuno può arrivare, nessuno può arrivare. Santo il riposo che toglie ogni male, e il bisogno di pane che toglie la fame, per far posto allo stupore, santo è il silenzio dopo il dolore. E la paura lascia sperare a piene mani, senza sudore, ma la paura lascia sognare, senza speranza, si spera ancora, si spera ancora. No, no. Sulle labbra avrò parole nuove, e nei tuoi occhi la mia pace, e tutto il mare del mondo.